buonasera, buonanotte da parte di Max Macchia da Radio Città Fujiko, ovviamente 451 frammenti sonori che ritorna appunto sulle onde di questa radio, sul blog del 451frammentisonori.noblogs.org curato da Lorenzo Albano, 451 intersezioni curato da Eliseo Scarpa per buona parte e il sottoscritto che cura 451 frammenti sonori, una serie di ridondanze così non vi scordate 451, ecco, che è un po' il numero chiave di tutta la faccenda, che chiaramente riporta al libro storico e meraviglioso, insomma, che più o meno insomma conoscete, no? Il famoso Fahrenheit 451, e anche al film altrettanto meraviglioso. E questa sera, appunto, questa trasmissione, quindi non ripeto come si chiama, tratterà tra vuoto e pieno una specie di percorso e appunto tra svuotamenti e invece anche grandi caricamenti di energie, di potenzialità, di potenza, perché no, o di noise svuotato, poi appunto ricompiuto, rimesso dentro una materia appunto che sembra quasi così svuotarsi su se stessa, quasi a trovare una specie di azzeramento sonoro di grado zero che si può raggiungere, ovviamente, poi un po' questo è anche il gioco che si vuole fare questa sera, sia con un pieno pieno sia con un vuoto vuoto, tutte e due insomma sono poi più vicino di quanto pensiamo. E in effetti le musiche che ascolteremo questa sera riportano a questo paradosso, se vogliamo, insomma, tra rumore e silenzio, quindi le grandi insomma esplorazioni anche musicali di vari noiser e anche tra i vari, potremmo chiamarli silenziatori, ma insomma non mi sembra il caso, John Cage in partenza, poi ovviamente non all'arrivo, ma così è una corsa che ancora è da lì a finire, anzi siamo ancora, come dire, dentro a un percorso lunghissimo, quindi dai vari Jim O'Rourke, dai vari isolazionisti, fino ad arrivare insomma ai nostri giorni, con momenti che tra l'altro insomma sono quasi legati strutturalmente alla musica, il vuoto e il pieno poi di fatto fa la musica, e vari non soltanto sound designer ma mixeristi, chi ha fatto musica con lo studio di registrazione ha capito perfettamente questa cosa, veramente a volte basta abbassare o alzare al massimo un cursore per dare un suono, per strutturare insomma quello che vogliamo definire musica, perlomeno da queste parti, musica chiaramente che cercano di sperimentare nuove strade o che comunque hanno questo approccio così non allineato e nel tentativo di se non creare, ricreare situazioni che possano poi portare altri lidi. Vuoto pieno, forse come tutte le trasmissioni di 451 frammenti sonori, come buona parte anche delle trasmissioni insomma che sentite in giro, poi più o meno coscientemente ci sono questi vuoti e pieni. Chiaro che il genio sta appunto nel farli ascoltare, appunto prendere consapevolezza e far prendere consapevolezza di questi svuotamenti e riempimenti continui. Jarrett sicuramente è uno dei personaggi, un suo progetto che meglio di tanti altri sta facendo proprio negli ultimi gli ultimi anni, si può dire, insomma, più o meno attivo dalla fine degli anni zero, soprattutto legato alla misanthropic agenda, ma anche alla no fun, dentro progetti come Sears, quindi con Pete Swanson, Young Swans, Noise, portato a grandi vette, anche con quel senso costruttivista che non manca anche dentro dentro il progetto di Jarrett, che è Jarrett Whitmer, è americano dell'Oakland, Death Row, altro progetto più legato magari strettamente all'Arsh, al noise più brutale, brutalizzato. Noi ci andiamo a prendere da un lavoro tratto proprio da la sua misantropica agenda, un bel lavoro, un doppio CD di qualche tempo fa, dove si remixava e dove lo stesso, tra l'altro, Merzbo remixava un suo lavoro, Frog, edito proprio dalla Misantropic di Jarrett. E vari personaggi si misuravano appunto con il grande Noiser, uno delle, così, dei nomi più importanti, uno insomma delle figure più carismatiche per quanto riguarda appunto il trattamento di materie sonore scabrose, portate veramente a dei livelli incredibili di grande eccesso, ma anche di grande raffinatezza, come spesso insomma amo dire, ma di fatto insomma Merzbo è seriamente maestro di questo trattamento appunto estremo del suono, fino ad arrivare al rumore bianco, e quindi veramente svuotare completamente la materia sonora. Jarrett, appunto, da questo lavoro Frog Remixed e Revisited, una rivisitazione più che forse un remix di Jarrett su Frog, è dove appunto c'è questo gioco tra pieno e vuoto accennato. Poi appunto nel corso della trasmissione avremo modo di sentire insomma momenti più forti rispetto al svuotamento e al riempimento. Per il momento appunto iniziamo con questo splendido pezzo di Jerry, che appunto Jarrett, che va a riprendere Frog di Merzbo. intermittenze sonore, come d'altronde poi in maniera intermittente conclude anche questo splendido lavoro di rivisitazione Gerrit su Frog, appunto di Merzbo, edito dalla sua stessa etichetta Misanthropic Agenda, e un lavoro di intermittenza che per molti versi è stato compiuto nei primi anni Ottanta, addirittura per un lavoro parallelo, per un progetto, insomma, per tanti versi vicino a Mauthausen Orchestra da Maurizio Bianchi, appunto, e già compiuto intorno alla fine degli anni 70. In effetti anche lo stesso Pierpaolo Zoppo, in arte appunto Mauthausen Orchestra, e il nome dice un po' già tutto su forme, insomma, assolutamente estreme, volutamente, insomma, portate al paradosso, all'eccesso, immaginari assolutamente perversi, dalla sessualità portata a immaginari appunto assolutamente quasi inaffrontabili, vicino a certe, insomma, estremismi di White House, ma di tutta poi una generazione che con appunto White House, quindi con quella storica formazione, ma con lo stesso, insomma, Pierpaolo Zoppo e con Maurizio Bianchi, aprirono poi a quello che è stato una delle correnti, e che tutto sommato lo è ancora, più micidiali, più incredibilmente espanse nel loro, e può porre un rumore che non è incessante, che porta appunto a degli estremi anche sonori, come d'altronde appunto accennavo, la sessualità portata in maniera decisamente pornografica, ma veramente è poco dire pornografica, a parte di Mauthausen Orchestra, e tutto un immaginario legato a nefandezze capitaliste varie, senza una connotazione diretta ovviamente politica, dico ovviamente perché già prendo una semplice copertina di Mauthausen Orchestra, non c'è quel riferimento, se non appunto in maniera provocatoria si va a toccare anche qua lidi di quasi, insomma, veramente limiti dove si può cadere veramente in eccessi anche quasi anzi parodistici per certi versi, autoparodistici, se poi questo è stato non un difetto, ma anzi una faccenda che è stata ripresa da nuovi noiser americani negli anni zero, portando appunto a una sorta di musica grottesca, parossistica, proprio gli esperimenti di questi sperimentatori appunto del noise estremo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, appunto come Mauthausen Orchestra. Lavoro Mafarca, un disco di culto, e tra l'altro ristampato anche da non molto tempo in vinile, circolavano soltanto cassette rese poi veramente quasi carbonare nel corso degli anni, e poi la riscoperta di questi di fatto maestri, poi seppur cattivi, ha fatto sia in modo che venissero ristampati lavori storici, ma anche che tornassero poi di fatto, insomma, Pierpaolo Zoppo con la sua Mauthausen Orchestra torna proprio negli anni zero, riscoperto appunto da una nuova generazione, e con anche un senso, insomma, piuttosto iconoclasta, ancora una volta, ancora non domato, anzi, però andiamo a prendere appunto da uno di questi lavori che sono stati un punto di riferimento sicuramente per le generazioni dei noiser contemporanei a lui, e soprattutto di quelle nuove appunto che sono partite dagli anni zero, Mafarca, titolo insomma futurista, marinettiano, anche qua la provocazione, '82, insomma, sì, c'era stato un po' di ripresa dei futuristi, però ancora suscitavano quello scandalo, no, che poi per tanti versi hanno amato anche loro, come buona parte dell'avanguardia, perlomeno quelle loro contigue, come ad esempio i Dada. E Mafarca, andiamo a sentire dal storico secondo pezzo, insomma secondo lato del vinile. A questo punto però devo dire che lo mettiamo da CD, tra l'altro prodotto da Atrax Morgue, che sentiremo anche in conclusione della trasmissione, appunto con un momento storico. E c'è proprio uno svuotamento completo quasi in alcuni punti di questo Mafarca, di questa seconda sessione appunto dello disco, e momenti assolutamente pieni. Si inizia da un pieno ottundente, quasi con un suono medio alto, disturbante, come spesso insomma amava fare Mauthausen Orchestra, per poi arrivare a momenti di svuotamento, a intermittenze anche qua, però molto più forti rispetto a Jarrett, che ci danno comunque l'idea sonora di quello che poi succederà e di quello che sta succedendo ancora in questi giorni, visto che questi suoni insomma sono ancora più che attuali, anzi hanno questo senso indefinito e infinito, insomma, di proponibilità o di improponibilità anche per altri versi. Mauthausen Orchestra. sfidare un ascolto che chiaramente, insomma, non può che essere estremo. Se Mauthausen Orchestra con Mafarka portavano quasi il power electronics a un azzeramento completo, quasi che caricando il suono poi volessero azzerarlo quasi in maniera completa in alcune parti. E invece Boris, un storico oramai, formazione del doom metal con chiari riferimenti, insomma, ai maestri del noise, del primo noise della fine degli anni 70, primi anni 80, che chiaramente portano il loro doom metal a vette, insomma, eccessive. Chiaramente i riferimenti sono tanto a Mauthausen Orchestra quanto a Merzbow, quanto a certi Melvins più sbracati e più dilatati, quelli dei 4 EP con la citazione direttamente dai Kiss, cioè musiche, insomma, che hanno fatto del noise anche proprio una sorta di viatico tra veramente svuotamenti e potenziamenti anche di un suono che porta, insomma, ad aberrazioni, anche meravigliose aberrazioni sonore. Qua appunto sembra quasi il contrario rispetto a Mauthausen Orchestra che abbiamo appunto ascoltato precedentemente, li abbiamo uniti, insomma, a Boris. C'è il suono parte appunto da una carica esplosiva che si evolve nel passare del tempo, nella continuità del pezzo, per toccare punti poi di saturazione sonora e di feedback che avrete anche probabilmente, insomma, sopportato e che i vostri impianti, insomma, avranno sopportato anche più o meno bene. Proprio a saturare a tal punto da toccare punti di quasi vuoto, no? Il feedback poi da questo effetto anche di straniamento, talmente pieno il suono da essere svuotato, un po' come succede col mixer quando si tocca un punto i picchi e poi cade interamente, insomma, appunto il volume del mixer, perché non riesce più a reggere, appunto, c'è, cioè, una sorta di blocco, di limite, no? Per non fare, insomma, completamente bruciare far andare, insomma, in picco definitivo, ecco, potremmo dire, il mixer e le strumentazioni. D'altronde questo tipo, insomma, di tecnica viene utilizzata anche in maniera piuttosto magistrale da Boris da una buona quindicina d'anni, se non più addirittura, da questi pazzi furiosi giapponesi, che potremmo anche così trovare in alcuni rivoli musicali, se vogliamo, di formazioni come quella che stiamo per andare ad ascoltare, Ultra, ovvero quella generazione intermedia tra sperimentazioni noise, power electronics come quella di Mauthausen Orchestra, di Merzbow, che poi, tra l'altro, ricordiamo, insomma, dal rumore analogico, dai synth portati agli estremi, insomma, circuiti chiusi, poi dopo Merzbow, Masa Makita porterà questo rumore anche nelle sperimentazioni digitalizzate, quindi ci sarà anche un passaggio epocale, e Ultra si trovano proprio in quella situazione di mezzo, stampando, insomma, musica tra la fine degli anni 80 e portandosi verso gli anni 90, quindi con anche quel senso più esteso del noise che sì, ma sicuramente Mauthausen Orchestra e Merzbow era, Maurizio Bianchi era piuttosto espresso, ma in molto molto industrial, poi in realtà era, come dire, ancora trattenuto da ritmicità e da forme che per quanto insomma dilatate, poi portavano anche per molti versi alla forma canzone, veramente tra molte virgolette, però insomma di fatto molte faccende insomma legate all'industria storico ci dicono e ci informano di questo. Ultra appunto, come stavo accennando, portano la dilatazione noise e creano un ponte appunto con le nuove generazioni che non si preoccuperanno più magari appunto delle forme canzone e di molti industrial, insomma anche con riferimenti ancora a rock qua parla di una sorta di un rumore sperimentato attraverso il collage di suoni e voci che rimanda tanto a certe faccende di Nursery Tune come a faccende che poi saranno sperimentate anche con i sample, con la digitalizzazione appunto degli anni 90 da molte formazioni più o meno isolazioniste e post-industrial e quant'altro. Ci andiamo appunto ad ascoltare da un lavoro storico come Spry Det Ultra, lavoro che tra l'altro ha anche forme in alcuni punti anche di vaghezze gezzate, quasi a volere omaggiare un jazz liberato da forse più che liberato e espresso in tutto anche qua il noise di molto free che appunto veniva comunque strutturato in maniera forte, qua la strutturazione è piuttosto libera e si va anche a toccare appunto improvvisazioni libere se non strumentali sicuramente insomma costruite attraverso un anche uso sapiente dello studio di registrazione. Ultra.